Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Il gigante Barbarossa arriva quasi con il capo alla cappelliera. È impossibile non notarlo. Per due ragioni. La sua statura imponente, la sua barba color fiamma, la sua capigliatura, anche lei appariscente, ma soprattutto lo si nota per il suo sguardo trasognato. Perché trasognato il giovane Barbarossa? Non lo so, guarda con nostalgia il sedile di fronte a sé, getta lo sguardo al di fuori del finestrino, sospira, guarda lo smartphone, ma sempre con la stessa attitudine di quello che aspetta qualcosa o aspetta qualcuno. Chi aspetta il gigante Barbarossa? Come nasce questo amore in treno? Amore, questa idea di amore, questo desiderio di amore? Sì, sì, premetto che non voglio illudere nessuno, non pretendo niente, non voglio spaventare nessuno, ma poiché l'emozione che provai è stata unica, mai l'avevo provata così forte, vorrei solo fare l'unica cosa a mio avviso ragionevole, cioè provare a presentarmi, ecco, questo è l'obiettivo di questa ricerca che va avanti da 10 mesi ormai. Beh, come comincia? Cominciamo dall'inizio, raccontiamo proprio l'istante in cui ti sei seduto in treno e qualcosa per te è cambiato. È iniziata prima, perché ho perso il treno, il mio treno che da Bologna mi avrebbe portato a Parma, e quindi ho dovuto cambiare binario. E sono arrivato sul binario del treno successivo in largo anticipo. Segno del destino già. Ma no, voglio raccontare come sono andati i fatti. E proprio alla fine della scala già ho visto lei con il suo gruppo di amici. Lei chi è? Lei? Lei. Una donna? Sì, una ragazza con dei capelli riccissimi, alta, circa 1,75 m, capelli castano chiari, snella e... L'appiglio che ho, appunto, non so niente di lei, so solo che ha questi capelli riccissimi, quasi da ragazza di colore, pur essendo italianissima. Molto riccia. La stazione di Modena, sto dicendo, o sbaglio? Stazione di Bologna. Ah, di Bologna. Tutti aspettavamo il treno direzione nord, quindi io sarei sceso. Cos'era, mattina, pomeriggio? Erano le 18.30 del 9 giugno, era quindi un giovedì. Alle 18.30 del 9 giugno una ragazza da capelli ricci assieme a una compagnia di amici, colleghi, non so se me lo spiego. Penso colleghi di concorso, qualcosa del genere. Avevano fatto un concorso a Bologna. Probabilmente, lì hanno cambiato treno sicuramente e sono saliti sul treno che li ha portati poi a Modena, perché sono scesi tutti a Modena. Quindi hai dato degli elementi... Metti caso che ci sentisse questa persona, certo. Qualcuno che il 9 giugno stava in un treno a Bologna che andava verso Modena, che ha i capelli molto ricci, carina. Quanti anni aveva più o meno? Lei tra i 28 e i 33, penso. Quindi concorso già da laureati, un concorso per lavorare. Sì, io penso, supposto, ho fatto varie supposizioni, ho pensato che i ragazzi, lei si accompagnava con due ragazzi e due ragazze, in totale erano 5, fosse il concorso scuola, quello indetto da... Ah, quindi gli aspiranti insegnanti potevano essere. Sì, sì. Però potevano anche essere dei dottorandi al ritorno da qualche convegno. Tu l'hai vista così? Cosa è successo? Ha fulminato questa visione? Ti è piaciuta? Io l'ho vista e sono scappato via, perché non so, ho perso un attimo di lucidità probabilmente e sono andato dalla parte opposta del binario. Cioè, spaventato da questa visione? Probabilmente, devo dire. Non penso di essere una persona timida, però mi ha un po' impressionato. No, ma fammi questa cosa, fammi importante. Capire, perché capita raramente una persona che ti fulmina così. Cosa hai visto in lei in quel momento? Non avevo squadrato benissimo il viso, che poi è la parte, penso, è più... valorizzata dai tanti capelli ricci. Assolutamente. E cosa guardavi però, scusa? Se sono indiscreto. No, i capelli da lontano si lasciano notare, perché comunque è un cespuglio in testa. Un cespuglione grande. Il viso pulito, proprio acqua e sapone, e non so perché sono scappato praticamente dalla parte opposta del binario. Il contatto, tutto questo è durato pochi istanti, basta. Mai pochi più. Istanti, e non no, è più mai visto. Poi c'è un seguito importante. E sono andato lontano, poi dopodiché è arrivato il treno, io ho cercato di distrarmi mentre aspettavo appunto il treno, già iniziavo a cercare di dimenticare, perché un punto importante, una cosa importante che non ho detto fino adesso è che il 9 giugno del 2016 io ero ancora impegnato sentimentalmente. Vabbè, quello che vuol dire adesso, di fronte a una fulminazione così istantanea. Lo so, però dentro di me subito... Subito i sensi di colpa, hai pensato alla fidanzata e dice no, non posso, ma dai, No, però anzi ho pensato tra me e me, adesso lo confesso, probabilmente non l'ho detto a nessun amico. Adesso sei lasciato con quella lì, sì? Ah sì, è stata... Perché si è messa fra voi questa sconosciuta? C'erano cose che non andavano da alcuni mesi e quindi vabbè, succede, che ti porta, divergenze. Vita nuova. Vabbè, allora comunque ti sei frenato, hai detto io sono un uomo impegnato. Non posso cedere a questa lusinga. Sì, ma cedere, almeno avvicinarsi. La cosa comica è che tornavo dallo SMAU, che è una fiera, sì. E c'erano tante bellissime stendiste. Quindi io ho imparato a fare dei filtri, perché sennò non potrei neanche lavorare. Però in quella stazione probabilmente, non so, è successo qualcosa. Il treno va. Bentornati a bordo, i viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Vabbè, cosa hai fatto poi? Ti sei avvicinato quando sei salito in treno? Mai più visto? Assolutamente no, io sono salito in treno. È tutto treno, qua? Io pensavo che ci avevi parlato. Molto lontana da loro, e fatto sta che poi ho trovato un posto libero, ho lasciato la mia borsa e sono corso un attimo a vederla, a farmi una rinfrescata alla faccia e levarmi la cravatta. Perché è un po' accaldato da questa visione? Sì, era anche il 9 giugno, quindi faceva un bel po'. Vabbè, l'hai cercata nello scompartimento? No, io continuavo nella mia idea di dimenticare questo... Di non cedere a questa lusinga. Tornando al mio posto... L'hai vista? Il problema era di fronte a me. Cioè, seduta? Era seduta nel posto che avevo occupato con la borsa. Secondo segno del destino però. E lì le gambe hanno iniziato a tremare. Beh, scusa, tu le hai detto signorina al mio posto, ma se vuole glielo lascio, no? No, lei si era seduta davanti alla mia poltrona. Da sola o con gli amici? Allora, lei era di fronte a me e gli amici erano nei quattro posti alla mia destra. Quindi tu potevi parlarci tranquillamente, ti sedevi. Assolutamente, avrei potuto chiedere tutto quello. E non l'hai fatto. Eravate anche voi allo SMAU. E niente. Avete fatto il concorso, di dove siete. Io poi di solito... Ma scusa, ma sei un po' coglione, ce l'hai avuta davanti. Scusa se lo dico, ma non è possibile. No, ma lo confermo, perché è una cosa incredibile, perché io parlo sempre con... Comunque, ti ha bloccato, sindrome di Stendhal, proprio non sapevi sì, proprio... probabilmente sì, io ero in blackout. Tra l'altro lei appena... Ma lei ti sorrideva, ti era cortese come normalmente uno si siede davanti. Era un viso dolcissimo. Accenni un saluto... Sì, un cenno c'è stato, ma addirittura quando mi sono seduto, poiché comunque sono altino, sono 1,90 m. Quindi con le gambe sotto in qualche maniera l'hai sfiorata. Appunto, lei, cioè, no, ho fatto attenzione, però lei subito, in maniera molto gentile, mi ha colpito, mi ha chiesto se volessi stendere le gambe. Cioè, ti ha anche chiesto di stendere le gambe? E mi tu non hai detto no. Stanco, mi ha visto, insomma, in quel posto troppo piccolo per me, forse, è stata gentilissima. E tu che hai detto, no, sei stato rattrappito tutto il tempo pur di non stenderle. Io probabilmente ho risposto con le mani, perché le parole non uscivano. Allora, dai, imbarazzante. E niente. Questa è ansia di prestazione prima della prestazione. No, là era ben altro, era proprio un incontro. Quindi non è nemmeno esteso le gambe, è stato lì immobilizzato. Incastrato in quel posto. Occhi bassi. E però contemplavo un viso raro, insomma. E lei che faceva? Parlava con i suoi amici? Loro sì. Ma hai capito un po' dal dialetto, dall'accento di dov'era, nord, sud, centro? Era eterogeneo secondo me il gruppo. Comunque lei mi pare avesse accento del nord, probabilmente emiliana. E anche le due ragazze. Forse c'era uno dei due ragazzi invece che era meridionale del sud. Vabbè. Io ricordo solo una frase di una sua amica, collega, che parlava di ottimi laboratori. Beh, le scuole ci sono i laboratori, può essere. Probabilmente sì, perché di un'università non. Ah, università parla. Ancora di più. Sì, sì, può essere. Magari era ricercatore. È raro che in una scuola ci siano. Non hai sentito nemmeno se l'hanno chiamata per nome, un nome, niente. Sicuramente l'avranno chiamata per nome, ma io. È selezionato. Purtroppo niente, non. Ma chi è sceso prima dei due? Fortunatamente lei, sono scesi tutti in blocco a Modena. Quindi sta a Modena, non esiste, poi da Modena. Arrivare alle 7 di sera in una città che non è la tua senza valigia, effettivamente. No, sono da Modena, da Bologna andavano a Modena, quindi lei è modenese, basta andare a Modena. Probabilmente modenese e da. O dell'Interland, comunque lì è. C'è una coincidenza con Mantova a Modena, però non penso che al 90% penso sia modenese o comunque ma Mantova già parlano in maniera diversa, già parlano sì, ma Mantova hanno un accento diverso rispetto a Modena. Se tu hai notato un accento emiliano più facile che sia Modena. Non sono certo perché non ero al massimo della lucidità, quindi. Ma è scesa, ti ha salutato? L'hai salutata quando è scesa? Non mi ricordo assolutamente niente. Cioè, tu pensa lei che è scesa con la bica, dice, ma pensa tu quello che c'avevo davanti, non ho capito, era sì, impedito. Sì, no, sono certo di aver fatto una figura di cretino totale, perché probabilmente lei mi ha detto anche qualche altra cosa dopo questo stendere le gambe, io non penso di aver risposto. Avrà pensato non gli piacciono le donne, poverino, ho provato in tutte le maniere a svegliarlo. Magari totalmente disinibita, ha detto mi piace tanto quel ragazzo, avrei dato chissà che per conoscere. Comunque probabilmente il bello viene dopo, perché dopo aver sistemato la sì, perché l'inizio non è che sia tanto bello, è, no, è una tortura pratica, è un'autoflagellazione. Sì, no, veramente un errore gravissimo. Però guarda, ti dico una cosa, non so niente la tua vita, ma il vero motivo per cui ti sei lasciato poco la fidanzata lo capisci da te, che dentro di te c'avevi questa cosa che ti ha offuscato ogni altra presenza femminile nella tua vita. Ma per la mia ragazza, ripeto, c'erano. Sì, ma questa qua te l'ha cancellata del tutto. Di intraprendere strade diverse. È cambiata la mia vita poi nei mesi successivi, perché effettivamente da 10 mesi io non mi sono fidanzato con nessuna. Ah, tu stai a stecchetto aspettando lei. Una ragazza, ma una sera è bastata per capire che non era il caso, non era all'altezza. Ed è una bellissima ragazza che ho conosciuto. Scusa, ma tu non puoi, non so, andare a Modena, startene qualche fine settimana, girare, chiedere. Ah, adesso inizia il bello, perché io ho iniziato a girare inizialmente gli ospedali. Perché quel giorno c'era un convegno medico e quindi all'inizio ho pensato fossero dei medici. E quindi ho girato gli ospedali, anche la moglie di un mio amico che lavora in ospedale mi ha aiutato. Ce ne sono ben 7, mi pare, nella provincia modenese, li feci tutti. Hai girato 7 ospedali, chiedevi, c'è una dottoressa con capelli? Sì, più o meno all'inizio inventavo qualcosa, molto disponibili, però niente, nessuno conosceva questa ragazza. Anche perché onestamente viene uno sconosciuto, mi chiede, conosce la dottoressa? No, dico no. Due ricce me ne hanno presentate, no, sono disponibili per... Ma non era lei. Però non erano lei. Poi ho iniziato a uscire la sera a Modena, coinvolgevo i miei amici, dirottavo le uscite nel modenese. Vabbè, è una bella città, non è un sacrificio. Assolutamente bella, la adoro. C'è un bellissimo centro. Sì, no, è bellissima, non è particolarmente grande, quindi era anche facile nei locali provare a... Invece niente, magari fa una vita riservata. In questa ricerca ho conosciuto persone a cui ho chiesto una mano e quindi ho dei nuovi amici a Modena, però niente, non potevi fare un identikit, andavi da un pittore, facevi fare una specie di identikit, mettevi una locandina. Ah, ho provato, ma non il risultato è stato... Bastava che ci parlavi e avevi risolto il problema. Mamma mia. Ah, quello sicuramente. Ci parla, quanto poi... c'hai avuto? Un'ora di tempo? Quanto è durato il viaggio? 30 minuti. Beh sì, però in 30 minuti hai voglia, perlomeno. Assolutamente. Poi no, ti piaceva tanto, potevi scendere a Modena a questo punto. Scendevi a Modena, la seguivi, gli dicevi guarda, ma è fulminato. L'ho pensato tante volte che in quel momento non avrei dovuto continuare il mio viaggio. No, ma sai, mezz'ora, piuttosto che fare un approccio che può essere una cosa sgradita, sembra no, che... No, no. Però almeno avere qualche informazione, cosa fai, dove fai, dove lavori, che ne so, almeno andavi più sicuro. I suoi colleghi, ma in quale scuola, cioè, ma tutto si poteva fare in maniera molto... Diciamo, si può conoscere una persona in mezz'ora rimandando a un successivo, dicevi mamma ripasso a Modena, penso di sì. Ci vediamo una volta, ti saluto, o se no facevi la vecchia tecnica, attaccavi il discorso con la sua amica in modo che lei ingelosita poi si metteva in primo piano. E così si fa. Qualche cosa di lei l'avrei potuta sapere in maniera molto facile, purtroppo non è stato così, però non mi sono dato per vinto. Potevi fare una foto, perché non hai fatto una foto col telefono? Non ci hai pensato? Ma è come fare la foto al sole, secondo me sarebbe venuta. Comunque, era molto luminoso il viso. Io ti auguro di non incontrarla mai più, perché se la incontri, come meno la conosci, diventi il suo schiavo per tutta la vita. No, è bello per te. Una cosa è l'amore, una cosa è essere succube. Succube, ma già lo sei succube. Cioè, se la incontri, lei ti può chiedere qualunque cosa, ti dice tagliati una mano, te la tagli. No, l'amore non è questo, no. Vedrai te. Spero di poterti far sapere. No, spero di aiutarti in questa veste di ruffiano sulle ferrovie. Ne stiamo parlando da vari minuti. C'è caso che qualcuno magari qualche elemento poi ce lo dà. Io può lo venire. Spero vivamente. Vabbè, poi ci rintraccia, scrive al trenova@radio24.it. Sarebbe bello la prossima volta sentirvi assieme. Il treno va. Si ricorda ai signori passeggeri di non lasciare incustoditi i propri bagagli durante il viaggio. Io da un mesetto ho messo una pagina Facebook. Come si chiama? Sono andato anche ai social per sperare di... E come si chiama la pagina Facebook? La pagina si chiama Colpo di fulmine sul treno Bologna-Modena 900. Beh, titolo corto, è Colpo di fulmine. No, ma basta cercare Colpo di fulmine sul treno e esce la pagina. E spiego in questo volantino, perché con l'aiuto di un mio amico Alessandro ho creato un volantino e in cui spiego quello che poi è successo. Il titolo è Un colpo di fulmine non può finire senza neanche presentarsi. Questo è di fondo il concetto. E spiego quello che è successo, gli elementi, la data, il treno, l'orario. Ah, ecco, l'ho trovata. Allora, l'immagine di profilo c'è un punto interrogativo, è disegnato i capelli ricci, è preso non so da qualche cantante, così. Sì. E c'è il treno, cercasi riccia, disperatamente. Beh, questo non è molto bello, cercasi riccia, dai, sembra... Era una mossa di marketing per arrivare un po' a tutti, si collega al film. Magari lei non piace, magari lei che il suo complesso è capelli ricci, dovrebbe averci no, liscio. No, no. Le donne non sentono, è difficile capirle queste cose. Ma piacciono a tutti quei capelli. Infatti, mentre cercavo questa. Cercasi riccia disperatamente, ha messo. Poi con la faccina che fa l'occhiolino. Bologna-Modena, 9 giugno 200. Sto guardando adesso, 2016. Un colpo di fulmine non può finire senza neanche presentarsi. E lei potrebbe dire: chi ti ha impedito di presentarti? No, è carina, ha messo la foto la rappresenta più o meno, diciamo. Questa sì, il riccio è quello. Il riccio è quello. Bella, bionda, con dei tanti capelli abbondantissimi. Castano chiaro. Sì. Castano chiaro. E ha circa 30 anni, è alta, spero non si spaventi, e capelli riccissimi. Oddio, se mettevi anche una tua foto magari non guastava, così lei decide se chiamarti o no. Non ecco, c'è, forse non l'ho detto, io sono alto circa 1,90 m e ho la barba rossa. Magari non gli piacciono i rossi, che ne sai? Ah, sicuramente non piacciono a nessuno, però... No, rosso Malpelo, che ne so. No, ma magari che ne so, che vuol dire questo? Ma ti barba tipo hipster, bisogna dirla questa roba qua, una barba bella, non è che proprio una barbetta così spelacchiata, quindi vorrebbe andare bene come cosa. Viaggiava con 4 colleghi, 2 ragazzi, ma c'è scritto tutto, il volantino, ve l'andate a vedere, cercasi riccia su Facebook, si trova subito, cercasi riccia disperatamente, colpo di fulmine sul treno, Bologna-Modena il 9 giugno. Hai avuto qualche feedback da questo profilo Facebook? Sì, diverse segnalazioni. Ma sempre come chi l'ha visto, tutte finte? Sì. Risultato nullo, però alcune ragazze hanno scritto ipotizzando potessero essere loro, lei. E però purtroppo poi non lo erano, perché io alcuni particolari me li ricordo bene. E non sono risultate lei. Poi mi hanno segnalato alcune scuole dove ovviamente sono andato a presentarmi per cercare e volevo ringraziare, perché sia il personale amministrativo, docente, non docente, sono stati squisiti. Quindi hanno preso a cuore il tuo caso umano di una persona. Tutti, tra l'altro in una scuola ho trovato una dipendente che aveva conosciuto il suo attuale compagno in treno. Però saranno parlati a ritrovarsi. Però saranno parlati magari. Sì. Poi si sono persi e poi si sono ritrovati dopo 30 anni. Ecco, ma io ti auguro di trovarla un po' prima o fartene una ragione prima. Si erano incontrati a 18 anni e quindi dopo 30 anni ci può stare. Senti, ma nel tuo giro di amicizie la sanno questa cosa i tuoi amici? Ah, tutti, tu, ma anche i tuoi amici. Io. Ma ti passi per matto, dicono, un po' strano come minimo. Sì, le reazioni che ho avuto sono le più disparate, dal mito, ti invidio, eccetera, anche persone che non mi conoscono, al pazzo completo, maniaco, o peggio ancora, ha avuto una infanzia difficile. Che cosa ti è successo, Davide, durante... No, però ti capisco, ogni tanto uno ha bisogno di avere un mito forte in cui identificarsi. E tutto sommato anche bello se non la trovi mai alla fine, perché no, io no, spero di trovarla per insomma quello che poi dico anche nel volo, anche se no, rischi di morire in castità a questo punto se non la trovi. Spero di raggiungerla con l'annuncio, proprio perché insomma per poterle dire quelle parole che non le ho dette in treno, ma comunque. Scusa, se tu la rivedi, metti caso. Male, spero di conquistare. Sì, poi ti faccio un esempio. Metti caso, lei mi telefona, sente la trasmissione, chiama la radio, dice: io sono io la ragazza riccia. Io in qualche maniera vi metto in contatto, io ho il tuo telefono, se tu mi autorizzi do a lei il tuo telefono, purché vi facciate intervistare assieme al prossimo giro in treno, fai trovarsi. Ecco, ma se tu la vedi non neppure ti riblocchi ancora una volta? No, ho imparato la lezione, dai. Ah, sei andato a fatto analisi, sei andato da un terapeuta, come hai fatto? No, vabbè, ma io devo essere, cioè, io non sono mai stato tipo. Ma comunque sei single adesso, forse il tuo problema volevi prima risolvere la situazione precedente. Sei una persona onesta, dopo tutto, non ti andava di buttarti in un'avventura se prima non risolvevi quella che avevi in corso. Questo ti fa onore, è un atteggiamento limpido. Io onestamente non so quanto abbia inciso quella situazione e quanto questo volto sconvolgente. Ma il volto lo rivedi sempre uguale, nel senso, se hai fatto colpo allora ti rifà un colpo adesso. Assolutamente, io il viso lo riconoscerei tra mille. E le mettete degli occhiali scuri, tenere gli occhi socchiusi, che ne so. Ma il profumo te lo ricordi? Aveva un profumo particolare? No, il profumo... Niente, inodoro. Devo dire... Inodoro. No. Io ho questo ricordo di questo viso pulito... E tu sarai stato un po' sudato magari dall'emozione, quello è il problema. Vai, sentì l'odore di sudore e ho detto, mamma mia, quello lì che puzzava, pensa un po'. Capisci? Quando uno suda, traspira l'emozione, queste cose... Cioè, ma te... Io sicuramente ero in condizioni pietose perché ero uscito di casa alle 6:30 di mattina. Dice, ma pensa te, tutto il viaggio ho fatto quello davanti, che c'era un odore un po' forte, poi tutto sudato, poi stava lì, non so che volesse, guardava a occhi bassi, tutto strano, tutto rattrappito, manco mi ha sfiorato, per paura di toccarmi, c'era dei problemi. È probabile, avrebbe anche ragione, insomma. Adesso... l'avresti curata con questa chiacchierata, penso che l'avresti curata. Per me sarebbe un bel colpo se la ribecchi, così almeno c'è un'altra storia da raccontare, perché io vorrei sapere il punto di vista di lei, esattamente come me la racconta. Sì. Ma quello che vorrei dire, cioè nel caso, io ricordo benissimo, ecco, un particolare che ho notato, non aveva fede, non aveva nessuna... Vabbè, oggi tanta gente sposata non c'ha la fede, quello non vuol dire niente. Sì, però una coppia giovane di solito la porta. Comunque. E questo per te già vede per tempo. Ma scusa, fosse stata sposata, che ti importa? Di fronte all'amore? No, vabbè, no. Cioè, scappava, lasciava. Non volevi rovinare una famiglia, ecco. Patetico, banale, però no. Davanti a una persona giovane sposata, evidentemente ha fatto la sua scelta, che il rispetto. Ma tante volte sono scelte affrettate, che ne sai. Scelte affrettate. No, quello dico, magari avesse in progetto un matrimonio a giugno, a maggio. Aspetta un attimo, aspetta. Poi alzo le mani. Aspetta, perché tanto ti può conoscere, poi può sempre ripensarci. No, faccio tanti auguri, non voglio creare disastri, no. Tu sei così altruista che dici preferisco non entrare nella tua vita. Ho avuto la mia occasione di presentarmi, non l'ho sfruttata. Ma poi è ovvio, magari se non è convinta è un altro paio di maniche, ma se è impegnata ed è convinta, io la prendo come una dimostrazione che non è quella giusta. Che il treno passa solo una volta, ecco, questo è il fatto. Anche se poi non è vero, il treno poi ripassa ogni tanto. Non ci si conosce, mi fido del suo giudizio e va bene così, insomma. Però avrei piacere appunto a mettere un punto a questo pensiero. Sì, però ho notato che tu non hai messo la tua foto nel profilo Facebook, perché? Non si vede. La pagina Facebook è collegata al mio profilo. Ah, quindi lei può vedere chi sei comunque. Ma sì. La sconosciuta viaggiatrice andasse a cercarsi questo profilo Facebook dedicato all'incontro in treno, vede chi l'ha fatto, ti dà un'occhiata almeno. Il mio profilo. No, perché lei t'ha visto, se ti rivedesse la foto capirebbe che sei te. Magari lei non l'ha visto, per lei non è stata una cosa così fulminante. Ma sicuramente. Lei c'era uno in treno che, ma nemmeno si ricorderà, se posso ricordarmi tutte le persone. Beh, sarebbe molto positivo se si ricordasse, io non penso ricordi niente. Beh, sai, se tu non gli hai detto nulla, è una delle tante persone che incroci in treno. Di solito ricordi quelli con cui scambi almeno due parole, ma nemmeno ci hai parlato, sai. No, schiappa completamente, una schiappa totale. Vabbè, ma non devi sentirti in colpa per questo. Il treno va. Si ricorda ai signori viaggiatori che non è consentito l'uso promiscuo dei servizi igienici durante il transito in galleria. Vedila così, così almeno è una chance. È reso epica una storia prima ancora che cominciasse. Tu l'avessi fatto un po' il provolone, lei mi manca al finire, perché palle. Quello lì con la barba rossa mi ci ha provato in quella mezz'ora, ma che pensavi di ottenere da me? Ti saresti bruciato. Così lei c'ha sempre l'idea di un ragazzo romantico, idealista, di buoni principi, perché c'ha la fidanzata, innamorato folle. Sai, le donne oggi, è raro che una donna trovi un uomo così appassionato, di un amore da dolce stil nuovo, capito? No. Tu sei innamorato, Dante ha scritto un poema su Beatrice e si guardavano occhi bassi quando si incrociavano, capito? A lui non è andata tanto bene, quindi sì, vabbè, ha scritto solo un foglio per prudenza. Vabbè, però c'è Facebook, capito? Lo guarda più gente di quanto ha guardato la Divina Commedia quando lui la scriveva, probabilmente. Penso di essere una persona normalissima. Ma sì, senza voler fare il ma poi normale è termine che non deve più esistere, vuol dire normale. Hai fatto una scelta emotiva, in quel momento ti piaceva rimanere in questa condizione di fulminato dall'amore, che bello, è simpatico, soprattutto poi non ti richiede di fare scelte. Se avessi detto sì, vediamoci domani, che facevi? Magari angosciato, dove la porto, che le dico? Avrei dormito a Bologna per non rischiare di perdere l'appuntamento. Sì, ma poi sai, poi devi uscirci, poi devi parlare di te, poi magari devi parlare di lei, devi far qualcosa. Quando bisogna fare qualcosa, già il sogno si cala crudelmente in un reale da dover gestire. Così non devi gestire altro che l'illusione. L'illusione la maneggi come vuoi, tanto nessuno ti chiede ragione di una tua illusione. Vabbè, dai, in bocca al lupo, spero di servirti. Guarda, non faccio mai questo servizio per gli altri, anche perché a me non l'ha mai fatto nessuno da quando campo. Però vediamo stavolta se ti va bene, io porto a casa una bella intervista con la misteriosa viaggiatrice, e quindi con questo ripagherai del fatto che abbia per sempre reso problematica la tua vita. Ciao, buon viaggio. Ti ringrazio. Ciao. Tantissimo, buon viaggio a te. Ciao. L'audiolettera oggi mi mette tristezza, lo dico in anticipo. Mi mette tristezza perché non si parla di sregolatezza, non si parla di follia, non si parla di enigmi amorosi o di angustie sentimentali. Si parla di tramonto, e naturalmente chi già un piede ce l'ha bello fisso dentro il tramonto e va cercando in fondo a un binario l'uscita da questo perenne meriggio, altro non può dare che una sensazione di profonda solitudine. Beh, questo signore che mi scrive in realtà non è che sia vecchio, ma è vecchio dentro, e ve ne renderete conto anche voi. Ciao Gianluca, ho 52 anni, vivo in una media città lombarda, ho un buon lavoro e una bella casa. Sono andato a vivere da solo a 28 anni, a un'ora di strada dalla mia famiglia natia, per essere vicino al lavoro e per conquistare la mia indipendenza. 20 anni fa ho cominciato a frequentare le scuole di ballo e i locali dove si danza, ballo liscio e caraibico, salsa bachata. Ho intrapreso la cosa quasi per scherzo e invece mi ha coinvolto molto nel tempo, dandomi la possibilità di divertirmi, socializzare e soprattutto conoscere donne di ogni tipo. In questo ventennio di notti danzanti ho vissuto molte avventure, alcune durate una notte, altre qualche settimana, altre qualche anno, vedendosi ogni 3 mesi, sempre chiarendo in modo non troppo crudele che non ero molto portato a relazioni stabili. Nonostante una storia appassionata e complicata con una donna di 55 anni, di cui ti dirò più avanti, ho continuato la ricerca di avventure molto passeggere. Ma in quest'ultimo periodo ho notato che è sempre più difficile cogliere dei successi. E guarda che mi rapporto a 55-60 anni, non a ventenni. Ho 2 quesiti da porti. Ecco il primo. Ma è mai possibile che con nessuna di queste ultra cinquantenni libere, ancora in forma, dopo qualche volta che ci si vede, si balla, si parla, si ride, si beve, non si possa considerare constatato il feeling reciproco di andare a cena e poi passare una notte di sensualità e piaceri carnali? Trovo naturale che nei tempi giusti sia quello l'epilogo. Troverei innaturale il contrario. Vorrei dire a queste donne: pensate che venga qui per farvi compagnia? Perché vi vedo tanto sole, per insegnarvi a ballare mentre mi pestate sonoramente i piedi? Credete, care signore, che frequenti questi ambienti per discorrere con voi di alta filosofia? O devo firmarvi una dichiarazione ufficiale di fidanzamento? Vogliono la storia, con la S maiuscola. E infatti subito si chiedono, e dopo, e prima, e durante? Ma io dico, visto il feeling maturato e i tempi consoni allo sviluppo della cosa, facciamo questa serata pazza. Se ci è piaciuta, la rifaremo. Altrimenti, amici come prima. Pensi che sia questa una proposta troppo semplice? Sono troppo pratico nei ragionamenti, Gianluca. Che cosa mi sfugge? È vero che il mio successo in queste cose è andato spesso a ondate, ma ultimamente mi sembrano tutte verginelle. Sembra che chiedi loro un braccio. E allora mi sono proprio stufato. Tenetevele pure le vostre grazie. Tu che ne pensi? Non so che dire. Onestamente, non sono ancora nello stato d'animo, nella condizione esistenziale di andare a ramazzar signore attempate nei balli di collettivi. Mi sa tanto di tango ballato nel centro anziani, che è fatto semplicemente per ingannare il tempo, per ritrovare socialità, ma non certo, come mi dice l'amico che scrive, per cercare di rimediare pane e companatico. Ora, si meraviglia che le signore che lui tacchineggia alla scuola di ballo, pur essendo in fase post-climaterica, non disdegnano altro che la sua compagnia se non per un probabile fidanzamento finalizzato a una coppia stabile. Certo, se tu cerchi libertine o persone che hanno la frenesia dell'avventura così cotta e mangiata, forse devi cambiare luogo, ma forse devi anche cambiare fascia d'età. A quel tempo normalmente una persona si tranquillizza, o perlomeno se cerca avventure, trasgressioni, fughe dalla realtà, vertigini dei sensi, non le va a cercare con un signore di 52 anni che passa il suo tempo nelle scuole di ballo per rimediare signore sue coetanee. Prende, fa un viaggio, ci sono oggi delle offerte molto interessanti, va nei paesi caldi, nei mari del sud, in quei posti favolosi, pieni di gagliardi giovani e di rigogliose piantagioni di grossi bambù, e li trova naturalmente quello che non so se tu sei in grado di dare loro. L'altra questione è un po' legata alla 55enne conosciuta 2 anni fa. Mi sento molto appagato quando sto con lei. È la cosa che desidero di più. Tra un anno se ne andrà in pensione. Stiamo pensando a una semiconvivenza. Qualche giorno della settimana da me, qualche giorno al suo paesello per non distaccarsi troppo dai luoghi natii e per non soffocarci troppo a vicenda. In attesa, tra 5 anni, che venga pensionato pure io. Se ci frequenteremo ancora, abbiamo grandi progetti. Forse di trasferirci all'estero e godercela in santa pace. E se il sesso con lei non sarà più il massimo, pazienza, anch'io invecchio. E poi, caro Gianluca, sono 20 anni che esercito il mio libertinaggio sfrenato, decine e decine di donne. Che dici? Mi sarò sfogato? Sarà la maturità sopraggiunta in me? Ecco, vorrei la tua opinione anche su questo aspetto della mia vita. Grazie. Ed ecco il punto che realmente mi mette tristezza in questa lettera. Non me ne voglia l'amico che mi scrive, ma io devo dire quello che sento. In fondo, quando passo il tempo del viaggiare leggendo lettere, cercando di arzigogolare risposte o perlomeno impressioni a quelli che mi scrivono, devo farlo con la massima sincerità, altrimenti vi prenderei in giro. Ora, il signore 55enne che si lamenta, che alla fine non riesce a rimediare nemmeno il companatico, pur frequentando in maniera indefessa le balere e facendo corte spietata alle signore sue coetanee, mi dice che alla fine ha una fidanzata sua coetanea, una signora di 55 anni che sta con lui, fidanzata. Avranno una storia, si frequenteranno, saranno amici, faranno delle cose assieme, probabilmente faranno anche l'amore assieme, se ancora loro va. Sta pensando lui di proporre una convivenza. Una convivenza che però non è finalizzata comunque a tenere viva la fiamma della passione o al piacere di avere una persona vicino. È quasi un investimento, quasi che lui volesse una badante gratuita. Lui pensa che probabilmente presto sarà vecchio, a 55 anni, pensa che a 60 anni lui diventa vecchio. Non so, io dovrei sentirmi decrepito a questo punto che ho passato i 60 anni. E poi soprattutto fa una dichiarazione che mi lascia molto sospettoso. È di quelli che dicono, io ne ho fatte nella vita mia, mi sono tolto alla voglia, adesso posso star tranquillo. Ora, il vero libertino non ha la consapevolezza del suo libertinaggio. Per lui quello è il pane quotidiano, è l'aria che respira, è il suo approcciare la vita in maniera banalmente legata a quelle che sono le sue normalissime aspirazioni. Il libertino non dice mai io sono un libertino, io ho già dato soprattutto. Il libertino è indefesso, il libertino sogna di morire esalando l'ultimo respiro nell'esercizio del suo libertinaggio. Tu, millanti che sei un libertino, dici aver visto... d'aver fatto fiamme scintille, ma in realtà vai a razzolare vecchie a un centro anziani, diciamo la verità. Pensi di aver coronato una vita di grande amatore, ma in realtà stai con una signora tua coetanea, tranquilla, serena, felice, e pensi di accasarti con lei. Ma quale libertinaggio? Smetti di sognare, accontentati di una vita normale, banale, gratificante, da vero umarel, umarel sei nato e umarel resterai per tutto quello che ti resta da vivere.